la versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, benvenuti alla versione di Oscar da Oscar Giannino, venerdì 22 di novembre, 16:36, primi 31 secondi per chi è in ascolto in diretta, grazie a chi ci segue poi scaricandoci in computer per podcast. Un saluto e un abbraccio a due grandi città italiane oggi, innanzitutto ai genovesi che sono bloccati da 4 giorni per questo sciopero che vede i lavoratori della MT, l'azienda dei trasporti municipale, uno sciopero senza interruzione di fronte alla protesta dei lavoratori della MT per le ipotesi di privatizzazione o di cessione dell'azienda municipale. Da Roma ancora nessuno si è svegliato al 4º giorno di blocco della città, è un'azienda che perde moltissimi soldi da molti anni e Grillo credo che abbia un po' fregato tutti perché oggi era in piazza con i lavoratori mentre altri pezzi di politica non c'erano. Secondo abbraccio anche ai romani perché stiamo parlando della più grande azienda di trasporto, quella l'ATAC di Roma, rifatti i conti, in 10 anni sono 6,1 miliardi di euro, di cui 4 irrotti di contributi pubblici, 1,6 di perdite totali, già una volta ripianate pochi anni fa e risiamo entro un anno all'azzeramento del patrimonio. Ecco, forse sul trasporto pubblico locale c'è bisogno di una riflessione, ma oggi ci occupiamo di un'altra grande crisi industriale di cui ci occupiamo ricorrentemente perché è un po' il simbolo dei problemi ereditati, pesanti, di mancate bonifiche, stiamo parlando dell'Ilva di Taranto, come ovvio, e quindi di impatto fortissimo sull'ambiente, sulla sicurezza del lavoro, sulla salute dei tarantini e di chi lavora naturalmente negli impianti. È un anno e mezzo che si va avanti con reiterati interventi della magistratura e diversi decreti politici, un decreto della fine del 2012 da parte del governo Monti, un altro decreto convertito in legge, la legge 89 nell'agosto di quest'anno da parte di questo governo, e cronaca di questi giorni che non solo il commissario Bondi ma il subcommissario al risanamento ambientale si trovi di nuovo in difficoltà, si trova di nuovo in difficoltà per tre ordini di ragioni. La prima è che la magistratura ha reiterato il no allo svincolo di una parte delle risorse finanziate all'azienda, l'Ilva dei Riva, perché manca ancora il piano industriale. Seconda ragione, non è che per questo si rischia anche il subcommissario al risanamento ambientale di essere forse oggetto di qualche provvedimento della magistratura, visto che è appena arrivato e ha trovato tutto in eredità e si deve mettere in atto tutte le necessità per porre finalmente riparo al risanamento di un'impresa, possibilmente, auspicabilmente, senza farla interrompere. Si può superare o meno uno sblocco parziale delle risorse, mentre l'azienda, da parte sua, l'altro commissario, il commissario Bondi, che tutela di più gli interessi della famiglia e della proprietà, sta tentando con le banche di contrattare le risorse necessarie, miliardi per l'attuazione di tutte le misure previste dall'AIA, cioè dall'autorizzazione di impatto ambientale. Di fronte a tutto questo i giornali hanno iniziato a riparlare di nuovo di dimissioni dei commissari. Allora, ieri si è svolto un vertice, noi abbiamo con noi, lo ringrazio per essere appunto qui, il subcommissario in questione, quello al risanamento ambientale, che è un ex ministro dell'ambiente ed è presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Edo Ronchi, la ringrazio di essere con noi. Sì, buonasera, grazie a voi per l'invito. Allora, innanzitutto vorrei che lei spiegasse a chi è in ascolto, ai tarantini, ai pugliesi, a tutti gli italiani, lo stato delle cose. Cioè ieri, nell'incontro che avete avuto, si parla oggi di un approfondimento anche stamattina all'ambiente, mentre da Taranto invece l'agenzia regionale, l'ARPA, il direttore generale ha rilasciato polemiche un po' dure, dicendo che non c'era nessuno di loro al tavolo dell'incontro ieri. Stiamo andando di nuovo a un nuovo decreto, a un provvedimento, come sarà fatto? Esiste davvero il rischio che anche lei sia costretto alle dimissioni? Ci spieghi. Diciamo, lo stato dell'arte è più o meno il seguente. Come lei ben ricordava, qui si sono accumulati problemi per decenni in seguito al fatto che l'ultimo provvedimento ambientale, cioè l'AIA di novembre 26 ottobre 2012, non veniva attuata, anche quella il governo ha provveduto a commissariare l'Ilva nominando Bondi commissario e il sottoscritto come subcommissario, in particolare nominato dal Ministero dell'Ambiente. Da allora noi abbiamo attivato una serie di iniziative per assicurare la qualità dell'aria ambiente nella fase transitoria. Cosa vuol dire? Che avendo ereditato una situazione molto compromessa, evidentemente non è che possiamo risanare un colosso di questo genere in pochi mesi. C'è bisogno di rimodulare i tempi dell'autorizzazione ambientale integrata per recuperare gli 8 mesi che erano stati persi prima, non potendo far girare l'orologio all'indietro, e attuare ulteriori interventi di risanamento ambientale resi necessari dall'adeguamento alle norme vigenti e non previsti questi interventi dall'AIA. Quindi abbiamo attivato queste misure ottenendo, agendo soprattutto sul piano del funzionamento degli impianti, e quindi sono state fermate 6 cokerie su 10, 2 altoforni su 5, lo stoccaggio del carbone è stato dimezzato e è stata data la priorità ad alcuni interventi di effetto immediato. La buona notizia è che l'ARPA ci dice che la qualità dell'aria ambiente nel comune di Taranto e nel quartiere Tamburi, che è quello più esposto, è a norma, cioè nessun parametro sfonda i limiti di legge, ma anzi è significativamente sotto, sia per le polveri sottili, quelle che più preoccupavano i tarantini, sia per il benzo a pirene, che è quello l'inquinante più preoccupante, per il quale, per fare un esempio, c'è un obiettivo di qualità dell'aria di 1 nanogrammo, 1 miliardesimo di grammo, noi siamo oggi sotto 0,15, intorno a 0,15. La interrompo un secondo perché ha visto sicuramente stamattina dei comunicati che sono stati emessi dal presidente di Peace Link di Taranto, Alessandro Marescotti, che ha inviato una nota al direttore generale dell'ARPA pugliese, Giorgio Assennato, segnalando delle rilevazioni fatte proprio stamattina sugli idrocarburi policiclici aromatici che sembrerebbero non in linea, a giudizio loro, e dicono anche lo strumento che hanno utilizzato, già con quello che stava appena dicendo Ronchi. Come stanno le cose secondo lei? Se noi ci affidiamo a uno che passa con uno strumentino preso coi soldi del Lions, se incontra un'auto e fa rilievo dietro quell'auto troverà degli IPA piuttosto elevati. Smettiamola con questi dilettantismi. La rilevazione è fatta con centraline che seguono determinate collocazioni, hanno delle modalità di rilevamento scientifico, altrimenti veramente perdiamo tempo, perché se passa, ripeto, un camion e si mette dietro, registra dei valori pazzeschi. Ok, quindi il sistema pubblico rassicura e rileva. Quello che le chiedo è, è stato fatto questo per mettere in sicurezza, sì. I dati, devo dire, sono molto buoni. Tuttavia permangono, non voglio negarlo, anzi sono io il primo a dire, dei ritardi preoccupanti che derivano, a mio parere, da 2 condizioni. La prima è le procedure di autorizzazione ordinaria. Noi adesso siamo alla vigilia dell'approvazione del piano ambientale, che prevede la realizzazione di una quarantina di opere importanti. Alcune le abbiamo già mandate alle autorizzazioni, ma fra verifica delle bonifiche, licenze edilizie, modifiche del piano regolatore comunale. Con le procedure ordinarie a Campacavallo. Con le procedure ordinarie noi dobbiamo essere onesti e dire non stiamo nei tempi previsti dalla rimodulazione. Si può intervenire per decreto su questi tempi e snellirli? Si deve provare, e su questo stiamo lavorando. Altrimenti non è che mi chiedi di correre e mi metti le gambe legate. Qui lo sforzo è straordinario, il più grande stabilimento italiano, dove c'è accumulato un ritardo, vogliamo dire, decennale, forse pluridecennale. Adesso mi devi lasciare, se mi fai fretta, tenete conto che lì ogni ritardo è passibile di sanzione penale. È passibile di sanzione penale perché la magistratura c'ha i fucili spianati, di cui il rischio, appunto, che anche per chi come lei lavora su problemi ereditati si trovi coinvolto. Di sanzione penale. L'altro è di responsabilità verso i lavoratori e i cittadini. Certo, allora io adesso ho un minuto di informazione stradale. La questione aspetta. Le risorse finanziarie. Esatto, e ci arriviamo subito dopo, il minuto in cui riprendiamo poi il collegamento con lei, perché adesso c'è un'informazione stradale. La la versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta a 16:46:38. Qualche ascoltatore ironicamente dice: ah, perché tu hai l'auto blu. No, guardate, giro in metropolitana a Milano. Per questo vorrei che nel trasporto locale non ci fossero città bloccate, buchi clamorosi. Cioè, bisogna guardare con attenzione ai bilanci, all'efficienza di gestione, non arrivare ai bracci di ferro per cui poi le città rimangono paralizzate con la gente che deve andare a lavorare e non può, come a Genova in questi giorni. Non me la sto prendendo con nessuno, sono anzi abbastanza scandalizzato che mentre Grillo è andato in piazza, altri al quarto giorno ancora non prendono in mano la questione. E non sto parlando del sindaco Doria, che come sapete ha avuto contestazioni durissime anche all'interno del Consiglio Comunale, la gente ha fatto irruzione al Comune, ecco, quindi non, io sono sempre per la legalità. Torniamo con il subcommissario al risanamento ambientale dell'Ilva di Taranto, Edo Ronchi, che è con noi. Eravamo arrivati identificando le procedure da rendere più veloci, proprio per andare avanti nel risanamento, con i tempi ordinari delle procedure non si riesce a fare, si accumula altro ritardo. Seconda questione, risorse finanziarie. Se la magistratura dice a voi che siete impegnati in questa gara di recupero tempo, noi non vi possiamo sbloccare le risorse finanziarie che sono necessarie anche e soprattutto per fare questo, perché non avete ancora il piano industriale, ma la legge, il decreto 89, prevedeva che il piano industriale arrivasse esattamente esaurite le procedure, diciamo così, del piano ambientale. E lei ci no, sta... no, non le procedure, l'approvazione del piano ambientale. Sì, esattamente. Come si esce da questo? Sì, beh, diciamo c'è un piccolo intoppo che richiede però una premessa. Allora, la legge, e io penso anche il buon senso, ci dice che noi dobbiamo assicurare la continuità produttiva e occupazionale di questo stabilimento strategico e la tutela ambientale e sanitaria. Ci pone due obiettivi, non uno solo. Questi due obiettivi possono essere raggiunti con un certo equilibrio e ragionevolezza, perché è evidente che c'è una fase di transizione che non può superare i 36 mesi, che è la durata dell'adeguamento, durante i quali 36 mesi non c'è la piena conformità normativa delle attività che si svolgono in quello stabilimento. Quindi bisogna accettare un equilibrio fra un livello ragionevole di tutela sanitaria e ambientale, che è quello che io ritengo che sia quello delle emissioni esterne allo stabilimento, compatibile con la continuità produttiva, perché ovviamente ci può essere una linea che io non condivido, ma che non è quella prevista dalla normativa vigente, che dice, come alcuni stanno sostenendo in vario modo, fermate, fregatevene del dramma sociale di 12.000 il minimo disoccupati, sì, di un intervento strategico per l'economia nazionale, fermate e poi farete il risanamento. Non è questa la condizione in cui noi siamo chiamati ad operare, bisogna che sia chiaro, perché noi siamo commissari nominati sulla base di una legge con un preciso mandato. Sì, che vi affida questi due obiettivi, il risanamento nei tempi e la continuità d'azienda. Tutte e due sono obiettivi di legge. Fra l'altro si è pronunciata anche la Corte Costituzionale su questi due obiettivi, chiarendo molto bene l'equilibrio fra questi due valori, che si possono raggiungere entrambi. Si può assicurare la continuità produttiva tutelando l'ambiente. Così... Quando le posso chiedere, Ronchi, sì, sapendo la delicatezza della domanda, visto il suo incarico, al di là di chi lo sostiene politicamente, c'è un confronto aperto da un anno e mezzo su questo tema, fermare, certo, per risanare, riciclare tutto oppure continuare, io sono della sua stessa tesi, ma domanda delicata che le devo fare come giornalista, lei probabilmente non mi potrà rispondere, a lei ha l'impressione, come a me è sembrato più volte nei provvedimenti assunti dai magistrati, che anche in procura i magistrati siano di questa idea? Beh, ovviamente questo è un commissario di governo, non può rispondere a, certo, domande di questo genere, e poi non si può fare, credo, un discorso di tutela all'intenzione, bisogna, vabbè, valutare i singoli casi e i singoli provvedimenti. Io penso che nel rispetto dei ruoli che sono diversi, però ci vuole una leale collaborazione istituzionale fra tutte le istituzioni su questi obiettivi fissati dalle norme di legge, dopodiché ognuno svolge il suo compito nelle rispettive competenze, non posso che il quadro è questo. Mi capirà che come giornalista poi rimangono le opinioni, perché Marescotti, certo, continuerà a dire che è impossibile risanare l'Ilva e che ovviamente tende a dimostrare quello, che non si può risanare, è una sua opinione legittima, chi ha responsabilità istituzionali come noi ha un mandato di legge votato, certo, dal Parlamento. Se lei la pensasse, dice, così non potrebbe fare sul commissario. Non potrei fare sul commissario, ovviamente. Allora, a questo punto il provvedimento del governo arriva in che tempi e oltre che sullo snellimento delle procedure su cosa potrebbe essere? Perché si parlava di altri due o tre punti. No, io penso che esista anche un problema di risorse, di modalità di messa a disposizione di queste risorse, diciamo della proprietà, che non sono state destinate all'effettivo risanamento di questo impianto. Noi potremmo avere delle difficoltà, oppure potremmo fare di più, se fossero destinate le risorse dei sequestri della famiglia Riva all'effettivo risanamento. Tenete conto che dopo che sarà risanata l'Ilva verrà riconsegnata alla famiglia Riva o agli azionisti. Possiamo, quindi, subcommissario, io non la chiamo più subcommissario perché mi fa un po' ridere, Ronchi, possiamo spiegare a chi è a casa e ricorda che i sequestri furono in origine motivati dall'autorità giudiziaria proprio in seguito a una valutazione peritale di quello che serviva come garanzia per l'attuazione del risanamento. E allora com'è che adesso che c'è chi deve risanare non si utilizzano questi soldi? E questa è una domanda che mi faccio anch'io, e me la faccio anche in riferimento a sequestri attivati dalla magistratura, non solo tarantina ma di Milano, che ovviamente si collegano anche ad altri reati, per esempio di evasione fiscale, che in ogni caso individuano dei patrimoni che sono stati posti sotto sequestro e che sarebbe bene fossero destinati al risanamento ambientale. Ciò non è successo, perché io francamente non lo so. Penso che le norme non siano chiare, non siano sufficienti e che bisogna affrontare e approfondire questo problema. Il governo, alla luce di questo anno e mezzo, ha anche un po' di braccio di ferro, perché l'ha detto lei che la magistratura impugnò un decreto e la Corte Costituzionale si pronunciò, si riserva appunto nella discrezione anche poi di, non si dovrebbe fare, però le chiedo, di consultarli i magistrati, oppure si procede un po' così a tentoni? Quello che fa il governo non lo posso dire, certo. Non lo posso neanche sapere in buona parte, quello che so è che noi abbiamo messo sul tavolo tutte le problematiche, una parte significativa delle problematiche che si stanno studiando, le modalità di soluzione. L'intenzione del governo è chiaramente quella di una leale collaborazione con la magistratura. Perché ieri sembrava, da quanto veniva fuori dal Ministero, che addirittura il testo potesse andare al prossimo Consiglio dei Ministri, tempi rapidissimi. L'elaborazione sta andando avanti, perché i problemi sono diversi, dalle bonifiche alle procedure di AIA, alla soggettabilità al VIA, alle licenze edilizie. Insomma, non è un quadro normativo semplice, come puoi immaginare. E comunque sta andando avanti. Posso chiedere oggi un'ultima cosa negli ultimi 30 secondi? Perché degli ascoltatori ci chiedono: voi avrete un confronto continuativo? Avete un confronto continuativo con i sindacati e i lavoratori dell'impianto? Sì, non tanto personalmente, perché non mi occupo di questo, ma sì, c'è un continuo. Quindi tenete sempre tutti informati. Io ringrazio Doronchi per quello che sta facendo a Taranto. Continuate su Radio 24 con me, l'appuntamento lunedì. Ci occuperemo di un'azienda che sta chiudendo, ma dice alla Cina: cinesi, comprateci, perché è anche un po' colpa vostra, visto che siamo ridotti a chiudere. Vediamo come va, ce lo faremo spiegare da loro.